così grande che trovo un posto tra i desideri, dove si è conservato il tempo e un grande sole su di noi che continuamente afferra la tua mano piano piano quando stai precipitando dentro quei limiti compressi nel torbido dell'atmosfera. È un'ombra che ti dorme accanto e che trasforma con semplicità questo dolce canto irresistibile quando ci chiama, che suona come foglie al vento, come l'acqua che scivola sulla nostra pelle e toglie tutte le impurità. Ma quando stai precipitando dentro il vortice senza pietà, ed io che qui ti sto chiamando, tu preda delle circostanze, vorrei sentirmi di più. Sono libero, libero, libero, libero. E come armi di contrabbando, le tue parole feriscono il mio cuore stanco di cercare, di esplorare nella nebbia dei tuoi pensieri dove non c'è limpidità. Io continuamente afferro la tua mano